Salve a tutti e bentornati a Web Radio Luzzi. Questo è Non aprite con la persiana 1.4. Stasera Amanda Noxen Zocco. E mi hanno chiesto di essere breve. Samantha Fox and the Candant, che avremo presso i nostri microfoni. Io saluto come sempre Emilio, buonasera. Buonasera, Laura, da quanto tempo? Emilio, mi sei mancato. Pure tu mi sei mancato. Mi siete mancati tutti. Poi abbiamo Andrew. Buonasera. Poi abbiamo Francesco. Buonasera. Ti sento tu sicuro? E poi abbiamo Amici di Bagnini che mi fa la sigla. Buonasera. Scusate, no. Samantha Fox cantava Touch him, touch me, I want to feel it really. Bravo! E per ultimo saluto Carlo. Grazie, pensavo che te le dimenticate. Comunque. Ma io non mi scordo mai niente. No, tranquillo. Speriamo. Come okay. Ti chiami tu? Carlo. Ah, ok, vai. Buonasera, Carlo. E tieni un negozio senza nome. Tieni un negozio senza nome. Che volano! Casificio Roberti, ciao. Comunicazione di servizio. Un neo a questa pane! E mille bolle blu, bla. Punto blu, che abbiamo capito. Ecco. Dopo che prossimamente hanno si cangia torna nome. Non mi preoccupate. Perfetto. O cangio io su da Carletto, da Carletto. Passa la canzone così. Che vi laviate di più. Ecco. Da Carletto, capuzzate. Madonna, come non ci stai chiesto. Passa la canzone, grazie.